Vi sono donne che riteniamo valga la pena di conoscere e ascoltare, quantunque non siano ancora note né abbiano centinaia di anni di storia alle spalle. Una di queste è, a nostro avviso, Sophie Delavant. Sophie nasce nel 1964 a Monaco di Baviera, da padre ingegnere e da madre sarta. Dopo il liceo studia danza presso la Performing Art School di Monaco e a 26 anni inizia un percorso di spiritualità femminile in Germania con le maestre Ute Schirann e Runa Arun. Un anno dopo, la sua curiosità e versatilità la portano a incontrare l'agricoltura biologica, ma non solo danzatrice e contadina. Dalla mamma sarta apprende a cucire e crea una sua linea stilistica artigianale basata su tessuti naturali. Per presentare le sue creazioni usa la danza e il teatro e inventa sfilate e performance coinvolgendo le artiste e artigiane del borgo toscano dove nel frattempo si è trasferita. Nel frattempo prende in affitto un'azienda agricola e ricomincia l'attività di coltivazione e trasformazione integrandola con eventi culturali. Sophie è la prova vivente dell'enorme capacità creativa e gestionale delle donne che giungono a liberare il loro potenziale. Dal 2008 offre seminari di spiritualità femminile in cerchi di donne e pubblica le sue esperienze e ricerche, soprattutto nell'ottimo saggio Il conflitto fra le donne, esplorazione di un tabù sulla base del suo dono, che qui proponiamo e che riteniamo fondamentale affinché le donne possano davvero liberarsi dal millenario addestramento patriarcale a competere e a diffidare le une dalle altre. Attualmente vive nel Chianti, dove propone percorsi di spiritualità femminile e incontri di ricerca condivisa sul matriarcato, in una grande casa dove contemporaneamente produce marmellate e conserve con frutti e ortaggi biologici di sua produzione. Anche lei ha rinunciato al cognome patrilineare per sostituirlo con Delavant, ovvero la dea madre etrusca nel suo aspetto di anziana rigeneratrice. Di Sophie Delavant, dunque, la scuola delle donne è lieta di presentare il conflitto tra donne, esplorazione di un tabù sulla base del suo dono, introdotto dalla seguente sua dichiarazione di intento. Voglio onorare ogni donna nel suo essere portatrice di grande sapere e di grandi ferite. Voglio onorare ogni donna nel suo tentativo di districarsi, evolversi e contribuire al benessere all'interno del patriarcato esteriore e interiore. Voglio riconoscere in ogni donna lo sforzo che fa per sé e per ogni altra donna con il suo cammino personale e con il suo porsi nel contrasto. Voglio ricordarmi che ogni lite con una donna nasce da un disagio in comune e voglio dedicarmi in un campo di ricerca condivisa all'esplorazione delle possibilità di benessere per tutte le coinvolte, sapendo del nostro legame nell'acume e nella sofferenza. Mi impegno ad attenermi a regole di comunicazione e di accettare di esserci riportata quando opportuno. Parlerò di me stessa, consapevole che le realtà sono tante quante le donne e persone presenti. Sarò cauta con giudizi e attacchi, consapevole che sono espressioni delle mie ferite, paure, bisogni e disagi. Mi indagherò sui miei bisogni ed esprimerò i miei desideri senza aspettative di trovarli corrisposti. Questo brano, scritto nell'autunno del 2014, a pubblicazione del libro Già avvenuta. Facciamo notare che Sophie Delavant, pur essendo tedesca di origine, scrive direttamente in italiano, dimostrando una encomiabile, incredibile padronanza della lingua. Da Devana, buon ascolto.